La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori. Buon venerdì 27 di dicembre. Spero abbiate passato un buon Natale, un buon Santo Stefano. E siccome sono giorni un po' particolari in cui il tempo di più di chi non lavora, la maggioranza, è più lungo, io mi auguro che sia anche un tempo nel quale ci si possa concentrare su temi e argomenti che di solito però non fanno parte, colpevolmente o meno, secondo come la pensiate, della nostra quotidiana riflessione, della nostra pratica di vita, di quello che davvero ci smuove. Ed è per questo che abbiamo scelto questo giorno per parlare di un tema che, dal mio punto di vista, non ha molto a che fare con semplicemente la necessità di sentirsi più buoni e ogni tanto di pensare anche a qualcuno che ha sbagliato nella vita ma sta peggio, ma dovrebbe invece costituire un argomento costante dell'attenzione pubblica, perché ha a che vedere non solo con la sicurezza di noi tutti, ma con la verità, con la realtà dell'intento che viene dichiarato in Costituzione, nelle leggi da sempre, di reinserire nella società chi ha sbagliato. Insomma, abbiamo deciso oggi di parlare di carceri, del popolo dei carcerati, di questi 63.000 che riescono ad animare la politica italiana solo circa due volte l'anno, e adesso è di nuovo da due mesi che è così, per provvedimenti che da una parte sono necessari rispetto alla sovrappopolazione carceraria, all'impossibilità dell'istituzione carceraria di offrire davvero livelli minimi di umanità a chi ha sbagliato e sta pagando, ma non dimenticate che il 41% dei 63.000 è in attesa ancora di un giudizio definitivo, il 41%, quelli in attesa del giudizio di primo grado sono il 20%, l'altro 21% è chi aspetta naturalmente il lento passo della giustizia, ma questi sono i numeri che testimoniano il disastro della giustizia italiana, purtroppo. E allora abbiamo deciso di affrontare questo argomento un po' delicato, perché capisco che a molti di voi oramai è solo un lontano ricordo quella che un tempo nel catechismo si chiamava l'opera di misericordia corporale, cioè visitare i carcerati. Chi visita i carcerati nel nostro paese? Nessuno visita i carcerati. Il più, quando esce fuori misure di proposte di amnistia o indulto, insorge dicendo: ma no, hanno sbagliato, stiano in carcere, eccetera eccetera eccetera, che è una componente da considerare, ma la realtà è che la stragrande maggioranza di noi tutti non si occupa affatto ed è del tutto ignara di che cosa costituisca davvero la realtà quotidiana dell'universo carcerario e di che cosa questo spinga poi molti di coloro che escono magari a essere recidivi, perché non li abbiamo affatto reinseriti, non abbiamo affatto costruito un sistema volto davvero a perseguire quell'obiettivo, la pena rieducativa, come si suol dire, per chi ha messo piede in molte carceri italiane. Non sto parlando delle rare eccezioni tipo Opera e così via a Milano, ma in molti antichi, vecchissimi, cadenti carceri italiani sa che il livello di sovrappopolazione, di disumanità e di commistione tra l'elevatissima percentuale di chi sta lì per droga e così via rende impossibile ogni tipo di questo discorso. Allora abbiamo un ospite particolare, perché io ringrazio di essere con noi oggi, in questo venerdì 27 dicembre, il cappellano di Poggioreale, responsabile della pastorale carceraria diocesana dell'archidiocesi di Napoli, e con noi Don Franco Esposito. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Allora, posso chiederle innanzitutto da quanti anni è cappellano di Poggioreale carcere di Napoli? Attualmente sono 9 anni. 9 anni. E in questi 9 anni l'istituto penitenziario quanti ne aveva 9 anni fa e quanti ne ha adesso? Che passi avanti o indietro ha visto? Ma diciamo che il numero è di poco superiore a quello che era 9 anni fa, però è il doppio della capienza regolamentare. Il doppio. Sì, in realtà 1.400 dovrebbero essere detenuti, attualmente ce ne sono quasi 2.500. E è stata una costante, non è che ci sono state oppure è scesa a un certo punto per via di misure assunte e poi è risalita, come ha visto l'evoluzione dei numeri in questi anni? No, c'è stata una costante, perché il carcere di Poggioreale anzitutto è una cassa circondariale, il che significa che la gran parte, come diceva lei prima, sono detenuti in attesa di giudizio. Quindi c'è un ricambio continuo di presenze e il numero si mantiene sempre più o meno su questo livello, E questo chiaramente non permette nessun tipo di attività che sia realmente rieducativa e in funzione del reinserimento, quindi è soltanto un carcere di mantenimento, cioè di persone che vengono rinchiuse, che rimangono poi nella cella per 22 ore al giorno. Diciamo, le attività che si fanno nel carcere sono sempre così relative che a me a volte sembrano quasi una scusa per poter dire che questo carcere è un carcere legale. Ecco, ci sono delle attività, ma che riguardano massimo il 5-6% dei detenuti, per voler essere, diciamo, abbastanza larghi. E quanti, se ci sono, ma che percentuale di questi detenuti nella casa circondariale di Poggio Reale riesce a svolgere una delle attività di lavoro che il sistema carcerario offre a chi è detenuto? Ma i conti sono molto semplici, perché su 2.500 detenuti, diciamo che svolgono le attività 200 attività lavorative. E in queste attività lavorative dobbiamo inserirci tutti i servizi che vengono fatti all'interno del carcere, cioè servizi che servono al carcere. In realtà di attività lavorative, così come richiederebbe la legge, non ce ne sono, perché le attività lavorative che richiede la legge sono attività che poi ti mettono in condizione, una volta usciti dal carcere, a poter continuare anche con una qualifica maggiore quello che hai imparato all'interno del carcere. In realtà di questo non c'è proprio niente. Che cosa pensa della ritualità con cui nel dibattito pubblico si affronta, di fronte di solito a un numero che diventa davvero oltre ogni possibile umana capienza del sistema carcerario, ma sempre di un terzo e più di un terzo superiore al numero massimo dei detenuti che dovrebbe essere previsto? Ecco, questo rituale ritorno dei provvedimenti tipo amnistia e indulto, con il rituale ripetersi delle reazioni da parte politica, che tipo di riflessione la fa svolgere? Non le chiedo una considerazione politica, le chiedo la considerazione di chi sta dentro per svolgere una missione umana. No, io credo anzitutto che la politica guardi solo ai propri interessi, e i propri interessi sono quelli di avere il serbatoio di voti, e quindi si cerca e si è cercato in questi anni dare una parvenza di sicurezza rinchiudendo le persone nel carcere. Questo è un grosso inganno, ecco, e credo che l'opinione pubblica debba veramente incominciare ad aprire gli occhi su questo, perché rinchiudere le persone nel carcere è far sì che continui quella mentalità di criminalità. Dal carcere si esce arrabbiati, si esce dal carcere con la coscienza di aver subito una pena maggiore di quella che doveva essere in realtà. E poi io credo e ribadisco sempre che in carcere si entra colpevoli di un reato che si è commesso e si esce dal carcere vittime di un reato che si è subito, cioè nel senso che se uno deve pagare una pena, e secondo la legge la pena o è anche rieducativa e che serve al reinserimento, oppure non è una pena nella legalità, quindi è un reato che si commette, ecco, la gran parte dei detenuti esce proprio con questa coscienza, e poi ci ritroviamo per le strade detenuti che in realtà sono più criminali di prima. Quelli che sono entrati in carcere per qualche reato comune, in carcere imparano l'unica cosa che gli viene comunicata dagli altri detenuti con cui convivono per 22 ore al giorno, è come poi continuare a vivere nell'illegalità, perché non c'è altro tipo di rieducazione. E quindi questo credo che sia veramente un grosso inganno che la politica ha fatto in questi anni e che continua a fare alla società, l'inganno nella risposta. La risposta all'illegalità. All'illegalità che diventa una moltiplicazione di illegalità, l'ha detto chiarissimamente. Senta, si ha un po' l'impressione, guardando la cronaca giudiziaria e così via, che il sistema penale italiano non sia sfuggito a una costanza della vecchia Italia, quella che in realtà più delle volte la più alta percentuale, voglio dire, di chi finisce in carcere sia in attesa del giudizio perché non ha avuto provvedimenti alternativi e quindi si fa tutto il procedimento giudiziario e attende, sia nella media della percentuale di chi ha delle pene definitive, insomma la vecchia realtà non si è sfatata, quella per cui in carcere ci finivano soprattutto i poveri rispetto a chi ha più mezzi e quindi ha maggiori possibilità di difendersi all'interno del procedimento. Resta così o una sbagliata impressione? No, io sono pienamente d'accordo su questa visione. Noi qualche settimana fa siamo stati dal Papa, da Papa Francesco e i cappellani d'Italia, e Papa Francesco ha ribadito proprio questo, ha detto: qua purtroppo nelle carceri ci sono tutti i pesci piccoli, i pesci grandi nuotano liberamente nel mare, e questa è una conseguenza. Il Papa credo che abbia colto proprio nel segno questa. E la cosa vergognosa, che io ritengo veramente vergognosa, è che adesso i politici, che fino a questo punto si erano totalmente disinteressati, adesso sembra che siano diventati i paladini, no, dell'indulto, dell'amnistia. E questo è vergognoso perché l'impressione, ma non è un'impressione, è che si voglia cercare di fare queste, diciamo, queste misure adesso solo per non pagare la multa all'Europa. Pagare la multa all'Europa ed è esattamente il punto da cui ricominciamo per questa breve interruzione per l'informazione stradale. Torniamo tra poco. Eccoci qui, tornati in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 per la versione di Oscar. Parliamo oggi di carceri e ne parliamo con il cappellano di Poggioreale, casa circondariale penitenziaria di Napoli, e responsabile dell'ufficio della pastorale carceraria diocesana dell'archidiocesi di Napoli. Eravamo rimasti a un punto, quello nel quale questa reviviscenza, attenzione politica al tema dei provvedimenti di clemenza verso la sovrappopolazione carceraria, una costante della storia italiana, una costante, avviene questa volta sotto l'impulso di che cosa? Della sensibilità, di un'attenta riflessione di che cosa provoca davvero come moltiplicatore di disagio sociale e criminalità le carceri italiane così come sono costruite? No, perché naturalmente è uno dei tantissimi, centinaia purtroppo per noi, esempi di infrazione europea in cui l'Italia, per via dell'arretratezza della sua legislazione, è contestata da Bruxelles, e di fronte alla multa di Bruxelles ecco che scatta il dibattito, ed è un dibattito in cui ancora una volta abbiamo visto negli ultimi mesi poi come la reazione della politica divisa sia da una parte dire: ah, questo è un provvedimento che serve a Berlusconi, ah no, allora, eccetera eccetera, come se questo fosse il problema. Berlusconi è una questione a parte. Qui stiamo parlando di 63.000 persone rispetto alle quali la Repubblica Italiana non è mai riuscita a offrire una civiltà minima. Se comparate il livello dell'organizzazione, dei servizi, del personale degli universi carcerari dei maggiori paesi avanzati con quello italiano, siccome, come diceva Voltaire, per giudicare la città di un paese bisogna guardare anche nelle carceri, beh, l'Italia sta in fondo, perché siamo a livelli pazzeschi, non solo per l'elevata percentuale di gente in attesa di giudizio, ma per gli edifici fatiscenti, e perché tutto questo, come ci ha spiegato il nostro ospite Don Franco Esposito, non fa altro che rinsaldare, aiutare le reti criminali, che naturalmente a quel punto diventano le vere titolari della norma, della legge, della forza all'interno di questo universo carcerario. Ecco, lei cosa si aspetta, Don Franco? Ci sarà qualche provvedimento oppure no? La scorsa settimana c'è stata una mini misura, per così dire, che interesserà più o meno 2.700-3.000 persone con dei termini più brevi rispetto ai quali avere misure alternative rispetto al carcere, ma si sa già che non è una misura decisiva rispetto ai numeri dell'universo carcerario. Perché tante volte sempre gli stessi errori? Perché lei dice la politica pensa solo ai voti. No, io credo che attualmente ci sia proprio ci sarà qualche provvedimento, sia per risparmiare questi soldi della multa da pagare all'Europa, e poi anche per risparmiare altri soldi. Cioè, qua il discorso veramente è all'opposto dell'interesse per la dignità dell'uomo. E perché se noi pensiamo che un detenuto in carcere costa quasi 300 euro al giorno allo Stato, Io mi domando, quando verranno messi fuori, non so, 9.000, 10.000 detenuti per uno dei provvedimenti, che sia all'indulto, sia all'amnistia, io mi chiedo, questi soldi serviranno alle casse dello Stato o non dovrebbero realmente servire poi a questi detenuti che vengono messi fuori? Io vorrei chiedere ai politici se questi detenuti fino adesso sono costati tanto allo Stato perché lo Stato si è interessato a creare sicurezza, nel momento in cui vengono messi fuori e non avranno nessun tipo di sostegno di nessun genere, questi soldi io credo che siano rubati a queste persone. È vero che al detenuto arriva 3 euro al giorno per colazione, pranzo e cena, quindi tutto il resto dei soldi serve a mantenere questo ambaradan di carcere, però dico, perché non si poi spende un euro per le case di accoglienza, per le comunità terapeutiche, per i centri di affidamento ai servizi sociali? Non si spende un euro per questo. Cioè, per tutto ciò, la interrompo semplicemente per fare riflettere meglio chi è a casa, Don Franco, per tutto ciò che serve una volta usciti dal carcere per impedire, per esempio, quello che di solito la politica brandisce come una grande arma per avere il consenso, teniamoli tutti dentro, cioè la recidiva. Per impedire la recidiva ci vuole una rete sociale fuori, certo, che continui a dare una mano, a monitorare, perché il più della gente quando esce naturalmente, certo, si trova in condizioni umane, economiche e sociali disastrose. Una statistica fatta qualche anno fa in cui la recidiva di quelli che facevano tutta la pena in carcere era dell'80%, mentre invece chi è riuscito a diciamo fare una pena alternativa o arresti domiciliari o affidamento ai servizi sociali, la recidiva scende al 3%. Cioè, dico, questi dati dovrebbero leggerli i politici perché si possano realmente creare poi all'esterno quelle realtà che non permettano più ai detenuti di entrare in carcere, perché l'unica cosa che veramente abbatte la recidiva è che una persona entri in contatto con una realtà positiva. Il carcere è totalmente una realtà negativa, ma fuori al carcere ci sono tantissime possibilità di crescita, di educazione alla legalità, di possibilità di socializzazione con delle realtà positive che fanno cambiare la persona, che fanno prendere coscienza alla persona del male fatto. E tante volte noi ci ritroviamo, perché io ce l'ho una di queste realtà positive all'esterno del carcere, ci ritroviamo con delle persone uscite dal carcere che hanno fatto un cammino di crescita e che attualmente fanno i volontari presso le nostre strutture a servizio dei detenuti che vengono dati in affido e delle loro famiglie. Ecco, questo significa veramente rispettare la Costituzione, no? Che dice che la pena o serve veramente alla rieducazione, alla presa di coscienza del male, oppure la pena non serve assolutamente a niente, anzi la pena serve a creare soltanto ulteriore criminalità. Allora, giustamente un ascoltatore ricorda che è giusto sottolineare che una disattenzione generale della politica, un movimento come quello dei radicali, anche a questo Natale, come a tutti i Natali, ha fatto una marcia esattamente per sensibilizzare su questi temi, e da sempre i radicali stanno da fare molto per questi temi, ed è giustissimo ricordarlo. Don Franco, lei è anche parroco, allora le chiedo, dopo aver tanto criticato giustamente secondo me lo Stato, vediamo un po' cosa possono fare, cosa fa la società italiana. Ma lei in realtà, nella realtà della sua parrocchia, che è una parte difficile di Napoli, insomma. Ecco, io veramente da qualche anno ho lasciato la parrocchia. Ah, quindi non è più parrocchia. Ho lasciato la parrocchia proprio per prendere questa struttura, che è la struttura che prende in affitto, sì, i detenuti. Ma però, se dovesse giudicare, per così dire, anche tra i fedeli, tra i cristiani, non voglio dire nella generalità della società italiana, sì, ma società quanta italiana, gente è disponibile davvero? Le nostre parrocchie sono state per anni mentalizzate, sì, alla pena uguale carcere. Adesso bisogna fare tutto un lavoro, la dimensione afflittiva, di sensibilizzazione, appunto, perché la società esterna capisca che la vera risposta alla giusta domanda di sicurezza non è più il carcere. Il carcere è fallito, adesso le realtà sono quelle là di comunità, di accoglienza, di servizi sociali, della pena come retribuzione nel senso di ripagare la vittima del reato che si è commesso, anche attraverso i servizi, l'impegno verso le realtà più deboli che sono nella nostra società. Tutto questo deve diventare un programma politico, perché fin quando tutto questo è devoluto soltanto alla buona sensibilità di alcuni volontari, rimarranno sempre delle cose sporadiche, mentre invece deve necessariamente diventare un programma politico dove la politica si impegna a sostenere queste realtà, e allora veramente ci accorgeremo che il carcere deve essere l'estrema razza. Senta, quando in si... carcere non ci possono essere i tossicodipendenti, che sono il 30%, sì, sono d'accordo, non ci possono essere l'extracomunitario che non è un delinquente e che deve stare lì nel carcere solo perché non ha tutte le carte in regola. No, no, certo, per il tossicodipendente, non stiamo dicendo per lo spacciatore ovviamente di grandi reti, per il tossicodipendente il carcere non è la soluzione, da tanti anni, battaglie inutili purtroppo compiute su questo, perché la politica ha preferito prendere un'altra strada. Detto questo... Ma io immagino tutti i tossicodipendenti che usciranno dal carcere per qualche provvedimento che sarà fatto, ma il primo pensiero che sarà, avranno, ovviamente, sarà fare, ovviamente, senta, perché negli anni di carcere non hanno avuto nessun tipo di sostegno riabilitativo, nemmeno minimo di riabilitazione. Certo. Senta, e il vecchio canone per il quale la Camorra, le reti di criminalità organizzata si facevano un vanto di sostenere i familiari fuori dei carcerati e anche carcerati dentro sprovvisti di mezzi, cioè facendo quello che non fa lo Stato in realtà, resta ancora vero o è una vecchia tradizione che è finita? No, questo resta ancora vero. In realtà tutti quelli che fanno parte della rete dello spaccio, in modo particolare, che poi sono la manovalanza della criminalità, nel momento in cui poi vengono arrestati, la famiglia viene sostenuta dalla criminalità. E io un po' di tempo fa ho lanciato una proposta alle parrocchie, alcune l'hanno anche accolto, di prendere il posto della criminalità, nel senso buono del termine, nel senso del sostegno, non dell'attività di spaccio, quei detenuti che sono sotto queste grinfie della criminalità e quindi in debito con la criminalità, mettere noi come parrocchie l'avvocato, sostenere la famiglia e accompagnare il detenuto nel momento della detenzione anche quando uscirà dal carcere. Questo veramente è tagliare i ponti, no? con la criminalità, e credo che questo può essere preso in considerazione. Ecco, non solo dai cristiani oppure dalle parrocchie, ma dovrebbe essere lo stesso Stato, no, a preoccuparsi, non tanto con il gratuito patrocinio, che sappiamo poi come va a finire questo gratuito patrocinio dell'avvocato che si rimette, ma veramente a prendersi in carico l'attenzione di accompagnare questo detenuto sia dentro che poi anche quando esce dal carcere. Senta, umanamente 9 anni, mettendosi una mano sulla coscienza, quanti casi davvero le hanno dato la soddisfazione di dire sono servito a cambiare la vita di qualcuno? Allora, tutti quelli che sono entrati in contatto con una realtà positiva all'interno del carcere. Dico tutti, anche se la quantità è poca, perché la presenza del volontariato nel carcere, quello è fondamentale, perché il volontario, il cappellano, anche la suora, viene vista non come carcere. Certo, un'alternativa al sistema afflettivo pubblico. Io ringrazio Don Franco Esposito per questa testimonianza sul poggerò del sistema carcerario italiano. Continuate a sentire Radio 24, appuntamento lunedì.